отвечаем только по телефону. 8-911-922-7827. 8-911-922-7827. radio. Jay with the sul 10. C'è qualcuno? Attenzione al canale 10. Hola, attenzione 10. C'è qualcuno su 10? CQ canale 10. Hola. Attenzione 10, c'è qualcuno? Hola. CQ 10, c'è qualcuno? Hola, CQ 10, c'è qualcuno? CQ canale 10. Hola.